Un buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, di nuovo qui sulle frequenze di Radio Radicale per la trasmissione Radio Left che ogni sabato mattina vi presenta il numero in edicola del nostro settimanale. La copertina questo mese e questa settimana è dedicata alla Chiesa Cattolica, il crollo è il titolo, la Chiesa è al capolinea, accumula ricchezze ma predica la povertà, protegge il crocifisso, nasconde i pedofili, difende la vita e attacca la scienza, contraddizioni e anacronisti di un credo che mobilizza le menti e la società. Questa è la copertina, all'interno trovate poi diversi articoli che analizzano vari aspetti di questo crollo di cui stiamo parlando, molto l'avete sentito, lo leggete normalmente anche sul nostro settimanale, lo avete visto anche da altre notizie di stampa. La Chiesa sta affrontando una crisi durissima al suo interno, di cui anche lo stesso Ratzinger in qualche modo si rende conto. Lo scandalo della pedofilia in questo momento è quello che probabilmente fa anche più presa sui lettori dei quotidiani o sugli ascoltatori di radio e telegiornali. Ci sono però anche altri scandali dietro la Chiesa, non ultimo quello economico. Ne abbiamo avuto un sentore in Italia in quest'ultimo periodo con quelli che sono stati gli scandali della cosiddetta cricca. Anche la Santa Sede ha finito per entrare nel gioco della protezione civile e di Bertolaso. Di questo parleremo con i nostri interlocutori. Io intanto presento Ilaria Bonaccorsi, direttrice editoriale del nostro settimanale, che questa mattina è qui con noi e autrice di uno degli articoli di questo sfoglio. Buongiorno Ilaria. Buongiorno, grazie. Al telefono con noi invece lo storico Claudio Rendina, intervistato da Federico Tulli, proprio su questo aspetto economico del tesoro della Chiesa. Buongiorno professor Rendina. Buongiorno. E con noi anche Noemi Ghetti, che invece ha scritto un lungo articolo su quello che è l'antropologia immobile di Benedetto XVI. Buongiorno professoressa Ghetti. Buongiorno. Comincerei, Ilaria, se sei d'accordo, proprio dal tuo di articolo. Ma io, diciamo, mi appoggio molto anche in realtà all'intervista al professor Rendina e all'articolo della professoressa Ghetti, perché in realtà, insomma, io ho semplicemente tentato di riportare per terra una polemica che era stata così in qualche modo trasversale, ma soprattutto resa fintamente una battaglia di libertà umana e culturale, cioè quella che ha visto protagonista questa querela sul crocifisso. Voi sapete che pochi giorni fa si è riunita la Grand Chambre e che ha discusso di Strasburgo, che ha discusso il ricorso che il governo italiano ha presentato contro quella famosa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che di fatto condanna l'Italia per l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche. Ovviamente la polemica è riesplosa e ha visto protagonisti insospettabili come per esempio Massimo Cacciari ma anche Travaglio, no? Difendere questa fazione, chiamiamola così impropriamente, pro crocifisso, e poi ovviamente protagonisti molto più scontati come l'immancabile Maria Stella Gelmini o anche il nostro Franco Frattini. Si è parlato, no, di simbolo di libertà, di simbolo di uguaglianza, quindi difendibile in ogni modo. Io ho semplicemente ricordato con certosina precisione che l'obbligatorietà nelle aule pubbliche di esporre il crocifisso è una misura voluta da Mussolini con due decreti regi nel 24 e nel 28, e che questi due decreti regi in realtà diciamo si occupavano dell'arredamento, cioè come deve essere composto. L'obbligatorietà del crocifisso in realtà era un problema di arredamento. Accanto alla fotografia del duce e del re doveva esserci anche il crocifisso. Detto questo, secondo me non è ovviamente riconducibile tutto ad un cambiamento di moda, per cui sarebbe anche ora forse di togliere il crocifisso dalle aule per una questione veramente di libertà. Basta un bambino contrario che diciamo decade questa famosa battaglia di libertà. Però è ovvio che c'è una battaglia bassa che ci ha fatto bassa nel senso di legata poi all'istituzione Chiesa, che porta, che fa vedere, che mostra in questi giorni ad un terrificante così fallimento, crollo, una battaglia che si è, diciamo, connotata sempre, la Chiesa ha sempre avuto questo vizio antico e forte di marcare il territorio, no? Una volta lo faceva costruendo così falsi diplomatici in cui si dimostrava che imperatori donavano, no, terre, terreni, l'intero Occidente, per esempio, se pensate alla falsa donazione di Costantino, oggi probabilmente lo fa semplicemente appendendo crocifissi, o più realisticamente appendendo crocifissi ovunque. Marca il territorio per costruire potere, sostanzialmente, e accumulare ricchezze, di questo ci parla il professore. Dall'altra c'è una battaglia molto alta che parla di un fallimento culturale enorme, che è quello di cui ci parla la professoressa Ghetti. Quindi, insomma, sono questi due grandi punti, cioè da una parte parlare di un'istituzione che crolla, anacronistica in qualche modo, e che ha sempre imitato il potere secolare e che su quella si è modellato, e dall'altra invece questa immobilità culturale, antropologica, come dice la professoressa Ghetti, gravissima, insomma, che ha portato a danni profondi, insomma. Insomma, lascio la parola a voi. Sì, farei spiegare proprio dalla professoressa Noemi Ghetti che cos'è questa antropologia immobile di cui le parla, prima poi di dare la parola anche a Massimo, a Claudio Rendila, che invito comunque a intervenire anche all'interno del discorso. Sì. Professoressa Ghetti, di cosa parliamo quando definiamo Benedetto XVI immobile? Ma guardi, io sono stata particolarmente incuriosita da un articolo comparso sull'Avvenire del 23 giugno, era la pubblicazione di una intera udienza pontificale avvenuta il giorno prima, forse l'Avvenire era del 24, l'udienza del 23, un'udienza del mercoledì, in cui il Papa è intervenuto, ma non è che l'ultima di tutte le sue catechesi recentissime, su San Tommaso d'Aquino, che è il teologo medievale che nel 1200 provvide a fondere la religione greca e la religione cristiana con il pensiero di Aristotele, quindi con il logos greco. Mi sono letta con molta attenzione questa catechesi, sono andata a cercarmi le precedenti e niente, sono poi le riflessioni sono venute una dopo l'altra, perché in contemporanea, diciamo, con questa informazione quotidiana che tutti i giorni, diciamo, ci raggiunge sulla lobby del mattone e sullo scandalo della pedofilia, in realtà il Papa ci propone, diciamo, rinnova, diciamo, una specie di offensiva, diciamo, con il suo magistero, col suo insegnamento, in cui ci propone un'idea della realtà umana in maniera meticolosa, in maniera capillare, attraverso una rassegna della Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino, che è la stessa e immutata dalla Bibbia, che noi abbiamo ricevuto dalla Bibbia e abbiamo ricevuto dal Logos greco. San Tommaso, appunto, ha integrato Aristotele con il cristianesimo, perché evidentemente all'arrivo di questi nuovi dei libri di Aristotele sconosciuti nell'Occidente si proponeva, diciamo, una novità, diciamo, o perlomeno si aprivano spazi, per quanto minimi, diciamo, alla riflessione sulla realtà umana che prima non c'erano, in quanto che la filosofia medievale era il platonismo, diciamo, integrato con il cristianesimo di Sant'Agostino. E la cosa è stupefacente, perché il ragionamento del Papa poi smaschera in fondo una cosa che è un'alleanza, diciamo, tra religione e ragione, che al di là, voglio dire, di scaramucce occasionali, voglio dire, in realtà è un fatto reale che di fondo, diciamo, che percorre tutta la cultura occidentale. Per cui il pensiero di San Tommaso poi di fatto riaffiora con questa sua alleanza, ma riaffiora anche nel razionalismo dei secoli successivi, di Cartesio, di Spinoza, di Kant, per trovare il suo massimo punto di sistemazione nella dialettica di Hegel. La realtà umana non è che un'emanazione di uno spirito divino, per cui secondo un'immagine che è molto cara al Papa, che il Papa ci propone anche con una rilettura del 33° canto del Paradiso di Dante, la storia è un circolo, è un'immagine circolare, si parte da Dio, che è poi in Hegel lo spirito assoluto, si arriva allo spirito oggettivo che è la storia, che non è che un epifenomeno, in realtà un'apparenza, una manifestazione apparente della realtà divina, per poi ritornare a Dio. E com'è che si ritorna a Dio? Si ritorna a Dio attraverso quel fenomeno che è specifico del monoteismo cristiano, per cui in questo il cattolicesimo si distingue da tutti gli altri monoteismi, che è l'incarnazione di Cristo, cioè il Dio che si fa uomo e assume sembianze umane. Dio diventa modello, diciamo, l'imitazione di Cristo diventa il modello per ogni cristiano e per ogni uomo. E qui ci sono delle riflessioni grosse da fare su questo modello di vita. Io non lo so se ho tempo, diciamo, per dire due parole su questo, ma è un modello di vita che di fatto, voglio dire, codifica quello che già aveva fatto Platone, cioè le donne che sono sprovviste di razionalità, diciamo, non sono inferiori, ma inferiori è una pietosa bugia, perché dire che un essere umano è inferiore è dire che non è un essere umano. Sono inferiori e non sono esseri umani in quanto sprovvisti di ragione, sono irrazionali. E quindi non potranno mai attingere alla condizione di umanità, i bambini men che meno, a meno che non siano maschi e non siano poi adeguatamente, diciamo, informati nelle accademie di filosofia o nei seminari. Questa è la realtà, le donne, quindi ogni volta all'emergenza di una possibilità di identità, di realizzazione di un'identità femminile fondata in realtà sull'emergenza di un'idea di pensiero umano specificamente come pensiero irrazionale, non come razionalità, ogni volta la Chiesa ha queste sue recrudescenze. A me è venuto in mente nel 1200, appunto, con la poesia di Dante, che stoppava tutta l'esperienza della poesia d'amore nata in Sicilia come rappresentazione dell'immagine femminile, come immagine femminile, ma poi con Giordano Bruno, Gli infiniti mondi, la materia sensibile, la materia umana sensitiva. E poi si ripropone adesso che c'è l'emergenza, anzi l'affermazione, diciamo, di una scoperta scientifica sulla realtà umana come, per l'appunto, pensiero irrazionale, fantasia, capacità di immaginare che emerge, che insorge alla nascita per trasformazione dalla realtà materiale, dalla realtà biologica. Quindi ci viene riproposto il modello di Adamo, anzi di Caino, il modello di Edipo, diciamo, con una insanabile condanna del pensiero irrazionale e con un'impossibilità di uscire, diciamo, da uno schema ideologico che è quello che fa da fondamento poi alla prassi quotidiana della Chiesa, perché il Papa rivendica questo, dice che deve essere prassi ecclesiale, quotidiana e specifica della Chiesa, non occasionale, diciamo, questa prassi caritativa. E questo pensiero, tra l'altro, è codificato ancora una volta anche in un articolo del 6 luglio, un articolo dello psichiatra Smeraldi apparso nell'Avvenire. Lo psichiatra colloca l'esperienza della fede al vertice dell'attività cerebrale, sopra e oltre la riflessione filosofica, non so in base a quali misurazioni, e trova aree di competenza comune tra teologia e psichiatria. Mi sembra, tra le altre cose, che in questo atteggiamento del Papa ci sia in qualche modo un bisogno anche di rifugiarsi indietro per evitare di dover affrontare quello che la Chiesa sta vivendo adesso da un punto di vista molto più materiale, quindi questo suo riportare comunque la Chiesa tutta nell'ambito dello spirituale serve anche a far dimenticare che invece stiamo parlando nella crisi della Chiesa di questioni molto ma molto materiali. Ed è questa una domanda, professoressa Ghetti, che farei a lei ma anche al professor Rendina, sì. Perché proprio di questo, dottor Rendina, noi parliamo quando diciamo che la Chiesa ha una materialità che è spesso nascosta, perché molti dei suoi beni sono completamente invisibili. Di alcuni, appunto, pur riconoscendone l'esistenza, tipo appunto tutto il patrimonio immobiliare di Propaganda Fide, se ne viene a parlare solo quando nasce un grosso scandalo, ma lei ne ha visti ben altri di questi tesori materiali della Chiesa. Volevo dire che la disamina che ha fatto la professoressa Aurora è veramente interessante, perché ci riporta in fondo a tutte quelle che sono le condizioni della Chiesa, non di oggi, ma da sempre. ha citato Dante Alighieri e vorrei anch'io citare Dante Alighieri. Dio gimai che la Chiesa di Roma, per confondere in sé due reggimenti, cade nel fango e se brutta è la soma. E a fronte di questo una frase di Carlo Maria Martini: ho sognato una Chiesa nella povertà e nell'umiltà che non dipende dalle potenze di questo mondo. Ecco, mi pare che questo riferimento che io ho fatto di carattere poetico, anche per Martini è poetico, diciamo, ecco, mi è di aiuto per indicare che in sostanza la Chiesa, direi che si è allontanata, ma non oggi, da parecchio tempo, da quello che è il messaggio di Cristo, insomma, c'è poco da fare, perché indiscutibilmente, se noi ci riportiamo alle immagini di Cristo, gli apostoli, questo mondo così lontano da noi, beh, lì è una Chiesa particolare, una Chiesa ben diversa, che logicamente si basa su elementi anche di povertà, chiamiamoli così, insomma, ecco, e che non sono assolutamente dediti a quello che può essere, io le chiamo anche in un genere, la conquista del mondo, ma se lo è in questo senso, lo è su un piano tutto spirituale, di amore, di serenità, di fraternità, che francamente riesce difficile riscontrare oggigiorno. Ma la causa di questo in cosa è? Ma direi fondamentalmente nel carattere tutto temporale che è sovrabbondante su quello spirituale nella Chiesa di Roma. E questo direi in fondo, diciamo dal Medioevo, tanto per indicare una cosa così generica di carattere storico, ma integrato poi nel tempo e direi aiutato, sovvenzionato dallo stesso Stato italiano, fin dal 1871, insomma, no? In collegamento proprio a quella legge delle guarentigie che la Chiesa rifiutò, no? E che era il versamento di un beneficio dato alla Chiesa cattolica, definito, sapete bene, come la congrua, no? Anche se limitatamente oltretutto ai parroci e ai sacerdoti confinanti, insomma, nella parrocchia. Questa congrua poi è stata confermata dai patti lateranensi del 29, in modo che i parroci e i sacerdoti, insomma, sono stati stipendiati dallo Stato fino al 1986, quando è stato instaurato l'usufrutto dell'8 per mille in ragione del nuovo concordato del 1984. Di qui poi una serie di situazioni che hanno sempre più incrementato l'aspetto, scusate se io prendo sempre di mira questo, l'aspetto finanziario della Chiesa, delle sue proprietà, dei suoi beni, che sono effettivamente il male di questa Chiesa, perché da lì derivano poi tutte le conseguenti cattivi aspetti di questa Chiesa. E notate che il riscontro poi con il discorso del nascondere, no, che so io, i casi di pedofilia, questo mettersi da parte, questo non volersi pronunciare e oltretutto proprio occultarli, è cosa vecchia, non è di oggi. Scusate se cito un'altra volta un poeta, in questo caso è il Belli, il quale ricorda che Don Marco fu convinto da adulterio, il Papa l'assorbé come innocente, diede in culo agli figli di Saverio e il Papa disse: non è vero niente. Al fine, ieri, per voler divino, una spia gli soffò dentro le orecchie: Santo Padre, Don Marco è giacobino. E il Santo Padre, nel momento stesso, sentendosi toccando veglie dole, lo condannò da lui senza processo. Ecco com'è il discorso, capisce? Quindi su un piano, di carattere, chiamiamolo peccaminoso, religioso, come lo vogliamo chiamare, ma che vuoi fare, zitto, non è vero niente. Ma sul piano dell'ideologia, eccolo là, veniva subito colpo ideologizzato. Senta, ecco, sì, scusi, se sono preso un po' dalla foga. No, io sono molto, cioè, da medievista, prima ancora che da, così, da direttore editoriale, posso confermare che noi storici siamo un po' disincantati, nel senso che nulla di più così consueto per noi scoprire altarini della Chiesa, no? Cioè questo gioco all'imitazione dell'impero, no? Il pontefice che copia la corona dell'imperatore, che tenta di dimostrare che in realtà quel che è di Cesare gliel'ha dato a Dio, insomma questa accumulazione di spazi e potere è una cosa che risale veramente quantomeno a Carlo Magno, ma io direi molto prima. Io devo dire che dubito, cioè mi fa sempre un po' specie questa distinzione fra un Gesù e quindi una chiesa originariamente buona e poi una storia palesemente, voglio dire, dell'istituzione chiesa, no? Che si istituzionalizza e che comincia ad imitare i meccanismi di potere di qualsiasi imperatore o re, perché in realtà, ricollegandomi a quello che diceva la professoressa Ghetti, c'è qualcosa che non funziona nel modello proposto. Cioè, sarà pur vero che Gesù era un gran brav'uomo, però il modello proposto, ed è il modello proposto in origine, non c'è niente da fare, è quello, e mi ricollego al mio articolo del crocifisso, cioè che è segno visibile di una malvagità umana originaria, cioè questa storia del peccato originale che viene, che diventa cardine in qualche modo di questo cristianesimo originario, quindi diciamo, il grande, secondo me, errore, il grande inganno, non so come dire, parlare di un uomo originariamente peccatore, certo. Fondare tutto su una possibilità di redenzione. La libertà dell'uomo si limiterebbe a questa possibilità di redimere i propri peccati. Ecco, secondo me, poi, per carità, benissimo tutte le distinzioni fra Gesù e la Chiesa, che è stata tanto cattiva, però secondo me l'errore invece è all'origine ed è nel modello proposto, nel modello che si è scelto, come diceva la professoressa Ghetti. Detto questo, una cosa volevo chiederle, perché un po' è nella Vulgata, perché adesso esce tutto? Se è vero che è solo un problema di migliore informazione, di tempi moderni, cioè stabilito che queste cose succedono e succedevano da secoli, perché adesso esce? Perché adesso la Chiesa crolla, tra virgolette, secondo lei? Beh, perché c'è poco da fare, certi fattacci, chiamiamoli così, di cronaca, sono dentro la società anche non cristiana, perché avvengono di conseguenza. Ci sono state iniziative, infatti, da parte nei confronti di alcuni sacerdoti, di denunce precise fatte, nonostante le tentative di copertura fatte da vescovi e cardinali, per cui è andata avanti il processo, quello che è stato, e questo dipende proprio dal fatto che la Chiesa si trova in qualche modo impelagata nella società, che logicamente è in gran parte anche quanto mai libera e non legata a sentimenti cristiani, religiosi, e come tale è finito per essere inguaiata, diciamo, in qualche modo. Ed ecco che allora sono venuti alla luce fino a una luce opaca, insomma, alla luce certi fatti. Per questo, secondo me, perché si è incrementata una fede non religiosa nell'uomo, nella società, e questo ha determinato quindi una crisi, se vogliamo, della Chiesa. Ecco, questo, secondo me, è questo il motivo. Professoressa Ghetti, invece mi piaceva chiederle, secondo lei, questo attacco sferrato alla sessualità, no? Intesa come identità, come realizzazione, è diciamo alla base del fallimento in qualche modo invece dei rapporti, della famiglia, ma anche dell'istituzione chiesa, cioè. Ma io penso, guardi, che assolutamente sì. La prima enciclica del Papa, del nuovo Papa, di Papa Benedetto XVI, del 2006, Deus Caritas Est, esatto, era interamente intesa a codificare o a ricodificare come, l'amore, come, l'amore come tra carità, uomo e donna, che lui chiama bramoso, inevitabilmente bramoso, il Papa, come amore, lui lo chiama discendente, cioè un passaggio dall'eros, diciamo, all'agape, che sarebbe sacrificio di sé, assistenza del prossimo, naturalmente purché sia prossimo, perché se non è prossimo non lo vogliamo vedere, e matrimonio, essenzialmente, specificamente, matrimonio indissolubile teso all'assistenza e alla procreazione. Questo è il modello di rapporto uomo-donna, diciamo, che non fa che codificare questa oppressione della donna, diciamo. Infatti si rappresenta unica tra le religioni monoteistiche anche in un'immagine femminile, che è quella della Madonna, nella figura della Madonna, che è vergine concepita senza peccato, che concepì senza peccato, madre che va addirittura al di là, diciamo, della donna del gineceo dei greci o della matrona romana. È vero. Per cui io ritengo, diciamo, che una chiesa che è così ferocemente avverso, che comunque vuole comunque canalizzare, diciamo, l'amore, che è la massima espressione di rapporto, di identità tra esseri umani, diciamo, non, invece lo vuole relegare a una sfera, diciamo, biologica in fondo e riproduttiva, o comunque condannarlo come peccaminoso nel caso in cui sia libero, e trovo che qui c'è una radice profonda. Poi tutto il resto, diciamo, cioè la donazione di Costantino, lamentata da, giustamente, da Dante, diciamo, come inizio del potere temporale della Chiesa, e poi dimostrata falsa da Lorenzo Valla nel 1400, un documento falso, diciamo, viene tutto dopo il fallimento. Sì, sì. Anch'io sono d'accordo con il direttore di Left, non credo, diciamo, che ci sia un cristianesimo delle origini completamente immune, perché l'ideologia del peccato originale, è vero, è stata sancita e ribadita come dogma da Sant'Agostino, da Agostino di Ippona, diciamo, lì c'è stato un giro molto stretto, diciamo, con Cirillo, con Agostino, alla fine del terzo secolo, diciamo, agli inizi del quarto, il tempo in cui si consumò anche il delitto, l'uccisione di Ipazia. Però io credo che il pauperismo delle origini, diciamo, non basti a spiegare. Il pauperismo di San Francesco, se vogliamo tornare a un episodio del 1200, a un esempio molto caro, il pauperismo di San Francesco esclude completamente le donne. Quelle l'elenco delle bellezze del mondo da amare come immagine di Dio, in realtà esclude completamente la donna. È vero. Non c'è la donna. E comunque ribadisce che tutte le lodi delle creature in realtà non sono che lodi dovute a Dio, perché la natura è semplicemente uno specchio di Dio. La donna, si sa, invece è un'immagine del diavolo, quindi chiaro non poteva essere inserita lì. Quindi anche nel innocente e buono San Francesco, infatti, la regola di San Francesco è stata approvata, ha ricevuto l'approvazione da Innocenzo III. Mentre invece i catari, che magari avevano un modello di sessualità più trasgressivo, al di là del catarismo o della loro purezza, si sono beccati una crociata sanguinosa. Io a questo proposito segnalo a pagina 24, sempre del numero in edicola questa settimana, un breviario fatto da Simona Maggiorelli dal titolo Santa Ignoranza, spigolature tra gli ipse dixit vaticani, scherzando ma non troppo, e molti dei temi che la professoressa Ghetti stava affrontando adesso li troverete qua, quello che appunto la Chiesa, ma a volte anche inconsapevolmente, sostiene su vita, sessualità, embrione, aborto e quant'altro. Io ringrazio sia il professor Claudio Rendina, intervistato da Federico Tulli per il nostro quotidiano, sia la professoressa Noemi Ghetti, che ha direttamente scritto l'articolo L'antropologia immobile di Benedetto XVI. Una buona giornata a tutti, grazie per essere stati con noi oggi. Grazie a lei. Anche io ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. E noi finiamo di, salutando appunto i nostri due interlocutori, finiamo di presentare brevemente, per lo spazio che è a nostra disposizione, il numero di questa settimana. Questa è la storia di copertina, l'argomento principale che quindi troverete. Vi segnaliamo però un primo piano su un argomento del quale ci stiamo occupando da più di un anno, ovviamente, che è quello dell'Aquila. Avrete visto tutti quanti la manifestazione di giovedì scorso, che è finita con le manganellate nei confronti dei dimostranti, degli aquilani, che erano venuti a chiedere al governo una modifica alla manovra economica che consentisse la dilazione delle tasse. Un articolo questa settimana di Emanuele Bonaccorsi e Alessandro De Pascale affronta un fattore particolare di questa storia della ricostruzione dell'Aquila, e cioè di quei soldi che sarebbero dovuti venire dall'istituzione delle nuove lotterie, che parzialmente appunto dovevano andare alla ricostruzione post terremoto, e di cui di molto non se ne sa nulla. Di molte di queste lotterie non si sa neanche quale percentuale debba essere destinata e come sono stati investiti questi fondi. Un'intervista anche a Massimo Scialente, il sindaco dell'Aquila, proprio su questa questione delle tasse. Con questo direi che è tutto. L'invito ovviamente a risentirci la prossima settimana ancora sulle frequenze di Radio Radicale e a ritrovarci sulle pagine del nostro settimanale. Arrivederci. Un saluto a Ilaria Bonaccorsi, direttore editoriale, un saluto a tutti voi, buon sabato, buon fine settimana.